siamo in collegamento con Jean-Léonard Touadi, giornalista congolese che da anni vive e lavora in Italia. Volevamo tracciare un bilancio di questo 2004 per l'Africa, nonostante sia ovviamente una situazione complessa e dai diversi piani. Io volevo partire però dall'attenzione che la comunità internazionale dedica all'Africa e ai suoi focolai di crisi. In uno dei più caldi, la Repubblica Democratica del Congo, la Commissione europea ha stanziato 80 milioni di euro per favorire lo svolgimento democratico delle elezioni presidenziali previste per il 2005, mentre l'ONU ha inviato 100 caschi blu tra le città di Kanyabayonga e Lubero per impedire gli scontri tra i governativi congolesi e le truppe filo-ruandesi. Secondo te si sta facendo abbastanza? Ma devo dire che rispetto all'immobilismo generale non possiamo negare che c'è un'attenzione maggiore rispetto agli anni scorsi. L'attenzione è sempre insufficiente, soprattutto se paragonato agli sforzi, alle risorse, alle energie, alla visibilità che altre crisi in altre aree del mondo hanno. Però ecco, ci sono dei segni di incoraggiamento, di una inversione di tendenza, perché penso che tutti quanti stanno cominciando a capire, lentamente ancora, però non possiamo non capirlo nel futuro, che il disordine dell'Africa, un'Africa messa così come è messa adesso dal punto di vista economico e dal punto di vista delle varie crisi che sconvolgono la vita delle sue popolazioni, non conviene agli africani, certamente perché sono loro le prime vittime di questo, ma non conviene nemmeno al mondo, non conviene tantomeno all'Europa, che è un po' il nostro dirimpettaio. Bene, anche l'impegno della società civile e delle ONG è messo a dura prova dalle difficili condizioni in cui si trovano ad agire gli operatori internazionali, che di recente hanno portato alla morte di 4 operatori di Save the Children e uno di Medici Senza Frontiere. C'è secondo te l'interesse che queste organizzazioni lascino le zone di crisi in cui operano? Non credo che possano lasciare e vogliano tra l'altro lasciare queste zone di crisi, perché sono le uniche antenne che si accendono spesso su questi casi per segnalare a tempo e a controtempo alla comunità internazionale che da qualche parte in un angolo molto remoto dell'Africa si sta consumando un dramma. La loro presenza è preziosa prima di tutto per la popolazione, perché sono a volte l'unica presenza organizzata in grado di dare un minimo di risposte ai bisogni della popolazione stremate dalla fuga, dalle zone di guerra, stremate dal succedersi di violenze che subiscono da parte dei vari gruppi armati, ma una presenza che è anche utile perché solo loro riescono ad echeggiare a livello internazionale, a testimoniare e a pungolare la comunità internazionale ad agire politicamente per risolvere queste crisi. Senti, oltre agli interessi occidentali, esistono anche degli interessi locali che aggravano le varie crisi fino a farle sfociare in aperti conflitti. È il caso, per esempio, della Repubblica Democratica del Congo e dei contrasti con il Ruanda, ma anche della crisi in Darfur o dell'Uganda. Quale può essere, secondo te, il ruolo dell'Unione Africana nel far sì che questi contrasti non sfocino in conflitti guerreggiati? Ma è una domanda questa molto importante, nel senso che ci sono delle analisi che tendono in qualche modo a privilegiare le cause esterne, occidentali, interessi delle multinazionali, una geopolitica del cinismo sbagliata e così via dicendo, tutte cose vere, ma che a mio avviso non devono essere presentate a discapito dell'analisi seria, profonda che dobbiamo fare delle dinamiche interne. Ci sono dei soggetti locali, dei soggetti africani che hanno anche loro dei loro piani strategici, che hanno loro dei progetti politici, che si alleano volta per volta con interessi internazionali per metterli in pratica. Il caso del Ruanda è palese, quindi non possiamo fare a meno di sottolineare e di andare a capire fino in fondo quali sono le dinamiche interne che sono dietro queste guerre. E allora qui diventa importante l'Unione Africana, che già oggi sta svolgendo un ruolo importantissimo attraverso gli organismi regionali. L'ECOWAS, l'organismo dei paesi dell'Africa occidentale per quanto riguarda la guerra della Costa d'Avorio, e invece il gruppo del SADC per quanto riguarda i grandi laghi. Sudafrica, Nigeria, ma altre nazioni ancora stanno sempre di più prendendo un ruolo rilevante nella mediazione nei conflitti africani, e questo non può che essere positivo. Tentiamo ora di fare un bilancio sullo stato di salute delle giovani democrazie africane. Durante il 2004 tutte le tornate elettorali in Africa hanno visto la vittoria dei candidati in carica sulle sfidanti delle varie opposizioni. È successo in Namibia, Mozambico, Botswana, Sudafrica, Malawi, Tunisia, Ghana e Camerun. Cosa significa questo dato? Ma significa intanto un fatto importante, insomma, no? La maggior parte di queste elezioni si sono svolte pacificamente, intanto si sono svolte, c'è stata un voto seppure inficiata da un estremo controllo dei mezzi di comunicazione della propaganda elettorale da parte di chi stava al potere, però si sono svolte, e in alcuni contesti, se togliamo contesti un po' atipici come quelli del Camerun, ma se prendiamo le elezioni in Namibia, le elezioni in Ghana, le elezioni in Niger, si può dire che i risultati riflettono in realtà il valore delle forze in campo. Il Camerun è un caso a parte, per cui è una democrazia titubante, imperfetta. Io non la chiamerei nemmeno democrazia, chiamerei un processo di avviamento alla democrazia, che sta dimostrando che è possibile anche in Africa realizzare un'alternanza al potere attraverso le urne e non come nel passato attraverso i colpi di Stato. Dopodiché tutto è perfettibile, a mio avviso. Qui può essere importante, possono essere importanti le pressioni che la comunità internazionale esercita per quanto riguarda invece le frodi e le persone che vogliono barare con il gioco democratico. Nel caso di Biya, per esempio, la Francia poteva essere un po' più incisiva nello spingere verso una reale apertura democratica. Biya è il presidente del Camerun, che ha vinto poi la terza volta le elezioni presidenziali, ma in tutti gli altri casi, parlo della Namibia, parlo del Ghana, che è una situazione che conosco abbastanza bene, parlo del Niger, i risultati riflettono, anche in Mozambico in una certa misura riflettono abbastanza la situazione reale delle forze politiche in campo. L'ultima domanda ora, Gian Leonardo, grazie. Tutte queste questioni sono ovviamente centrali, ma rischiano di passare in secondo piano di fronte alla vera e propria piaga dell'AIDS che colpisce l'Africa in modo particolare. Ci sono, secondo te, delle misure urgenti da avviare per vincere questa battaglia? Ma io direi che l'AIDS, con tutta la sua drammaticità, è solo la punta dell'iceberg. Il vero problema delle malattie dell'Africa in generale, la situazione sanitaria, la situazione scolastica, e quanto gli stati sono in grado di destinare alle spese sociali, quanto le politiche della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale permettono agli stati di utilizzare per far fronte alle spese sociali. Questo è il vero problema, perché è vero che l'AIDS sta decimando l'Africa, ma la prima causa di mortalità rimane la malaria, rimangono le malattie diareiche, per cui l'AIDS si inserisce in un contesto di precarietà sanitaria in generale. La vera guerra, in realtà, di cui non si parla molto in Africa, ma che andrebbe condotta con più incisività, la vera guerra che miete vittime tutti i giorni è l'allargamento quotidiano degli spazi della povertà e della miseria. Se si affronta questa guerra, se si mettono gli stati e tutte le strutture sociali in grado di mettere in pratica una politica sanitaria credibile che ha delle risorse sicure, anche la questione dell'AIDS può essere risolta. Certamente ci sono dei problemi di prevenzione, certamente ci sono dei problemi di resistenza culturale, però tutto questo può essere affrontato se si restituisce ai governi, alle collettività, la capacità di decidere dove indirizzare le risorse, non certamente nel pagamento di un debito che è stato strapagato fino adesso. Bene, grazie allora Gian Leonardo per la tua disponibilità. Grazie a voi.